E questa settimana parliamo di un artista che non avrebbe bisogno di presentazioni. Diciamo solo che ha 81 anni e che dal 1962 ha cambiato nome. Prima si chiamava Robert Zimmerman, da quell'anno invece è semplicemente Bob Dylan, l'inventore del folk rock e colui che ha plasmato la figura del cantautore così come la conosciamo oggi, senza dimenticare gli innumerevoli Grammy Awards e il premio Nobel per la letteratura vinto nel 2016. Lo scorso venerdì è uscito il volume numero 17 delle sue Bootleg Series, dove ripercorre le tappe che hanno portato alla pubblicazione del suo disco Time Out of Mind nel 1997. Il disco fu la rinascita artistica di Dylan dopo il periodo di difficoltà dei primi anni 90, caratterizzato da un'intensissima crisi creativa. L'artista arrivò addirittura al punto di pensare di aver già scritto abbastanza canzoni durante la sua carriera, meditando di lasciare il posto agli altri e far scrivere a loro altri pezzi musicali. Il disco, trentesimo di Dylan, pubblicato 7 anni dopo Under the Red Sky, è poi finito al numero 410 nella classifica dei 500 migliori dischi di sempre di Rolling Stone. La scrittura del disco iniziò nel 1996, nella fattoria in Minnesota dell'artista, che viene proprio da un paese di quello stato, Duluth. Ruolo importantissimo ebbe anche il produttore Daniel Lanois, canadese presentato a Dylan da Bono degli U2, che lo conosceva già dal 1984, quando insieme a Brian Eno produsse proprio il disco della band irlandese The Unforgettable Fire. Al produttore furono fatti ascoltare da Dylan alcuni dischi degli anni 50, come riferimento per il suono che l'artista del Minnesota voleva ottenere nel suo nuovo disco. I dischi degli anni 50 presi come riferimento erano stati scelti per la profondità naturale del loro suono, che non era un risultato del missaggio. Lanois era qui già alla sua seconda collaborazione con Dylan, dopo il disco Oh Mercy del 1989. Durante le registrazioni furono adottate tecniche innovative nel posizionamento dei microfoni e nel successivo mixaggio, per ottenere un suono d'atmosfera e molto scuro. Inoltre si ottenne la possibilità di cambiare delle singole parole in una take vocale, dato che Dylan era solito modificare i suoi testi più volte durante le registrazioni. A Lanois si deve anche la foto di copertina del disco, lo scatto sfocato di Dylan in studio di registrazione. Le registrazioni non furono sempre caratterizzate da un clima sereno, anzi, avendo molti musicisti in studio e dovendosi dividere con Dylan i crediti per la produzione, le registrazioni furono spesso conflittuali e si crearono molti disaccordi. In ogni caso, alla sua uscita, il disco fu un grande successo commerciale e ottenne un disco di platino negli Stati Uniti. Fu salutato dalla critica come il ritorno artistico di Dylan e gli fruttò ben 3 Grammy Awards l'anno successivo. La traccia che apre il disco è Love Sick, uscita come secondo singolo e suonata proprio ai Grammy Awards. La particolarità di questa canzone è il trattamento della voce come se fosse un'armonica, uno degli effetti di cui abbiamo parlato prima, applicati proprio da Daniel Lanois. Il primo singolo fu invece Not Dark Yet, che esplora la crisi esistenziale vissuta dall'autore ed è ispirata a un poema di John Keats, Ode a un usignolo. Uno dei 3 Grammy ottenuti da Dylan fu per la canzone Cold Irons Bound, che vinse nella categoria Miglior Performance Vocale Maschile Rock. La traccia è caratterizzata da un contrasto tra l'andamento della musica e il modo di cantare il testo. Il centro lirico del disco è invece la penultima traccia, Can't Wait, che riassume il pensiero che Dylan vuole veicolare col suo album nel verso «È così che stanno le cose quando si disintegrano». L'ultima traccia, Islands, dura quasi 16 minuti, in pratica la durata di questo podcast, ed è la storia delle interazioni del narratore con una cameriera di un ristorante di Boston. Quando a Dylan fu richiesto di tagliare un po' la sua canzone, lui disse che quella finita su disco era già la versione corta. Nel box uscito lo scorso venerdì sono presenti ben 5 CD e siccome all'epoca la produzione di Lanois fu anche criticata, in parte dallo stesso Dylan, che ne riconobbe però la pregevole fattura, in occasione dell'uscita del cofanetto il disco è stato remixato, cercando di restituire sia agli strumenti che alla voce del cantautore il suono più naturale possibile. Oltre all'album originale sono presenti anche le 4 outtakes, poi incluse in progetti successivi a questo, oltre ad un disco di versioni dal vivo e a 2 CD che ci consentono di vedere l'evoluzione che ha portato alla scrittura delle tracce e alla loro registrazione, così come le abbiamo conosciute dal 1997.